Capitolo 24. Un giorno di maggio gli abitanti di Avonlea provarono una certa eccitazione leggendo certe note su Avonlea a firma di un osservatore, comparse sul Daily Enterprise di Charlottetown. Le chiacchiere ne attribuirono la paternità a Charlie Sloane, in parte perché il predetto Charlie si era abbandonato a consimili voli letterari in tempi passati, in parte perché una delle note pareva prendere a bersaglio Gilbert Blythe. I giovani di Avonlea continuavano a considerare Gilbert Blythe e Charlie Sloane rivali nelle buone grazie di una certa damigella dotata di occhi grigi e di molta fantasia. Le chiacchiere, come sempre, sbagliavano. Gilbert Blythe, aiutato e spalleggiato da Anna, aveva scritto lui stesso le note, aggiungendovene una su se stesso come specchietto per le allodole. Solo due delle note, però, hanno un riferimento con il nostro racconto. Corre voce, era scritto, che ci sarà un matrimonio nel nostro villaggio prima che le pratoline siano in boccio. Un nostro recente e molto stimato concittadino condurrà all'altare di Imeneo una delle nostre più benvolute signorine. Lo zio Abe, nostro ben noto meteorologo, prevede un violento temporale con tuoni e fulmini per la sera del 23 maggio alle 7 in punto. La zona della tempesta si estenderà sulla maggior parte della provincia. Chi viaggia la sera farà bene a munirsi di ombrello e impermeabile. Lo zio Abe ha veramente predetto una tempesta per un tempo imprecisato questa primavera, disse Gilbert. Ma credi davvero che il signor Harrison frequenti gli Andrews per far la corte a Isabella? No, disse Anna ridendo. Sono sicura che ci va solo per giocare a scacchi con il signor Harmon Andrews, ma la signora Linde è invece sicura che Isabella Andrews abbia in mente di sposarsi perché è troppo allegra in questa primavera. Il povero vecchio zio Abe lesse le note al colmo dell'indignazione. Sospettava che l'osservatore si prendesse gioco di lui. Smentì irosamente di aver designato una data particolare per il temporale, ma nessuno gli credette. La vita ad Avonlea continuò nel suo solito tran tran, calmo e tranquillo. Si mise mano al rimboschimento e i progressisti celebrarono una festa degli alberi. Ciascuno di loro piantò o fece piantare 5 alberi ornamentali e, dato che la società contava ora 40 membri, ciò significava un totale di 200 giovani alberi. La primavera cominciò a verdeggiare sui campi rossi. Dai pometi, grandi braccia cariche di boccioli si spalancarono sulle fattorie e la regina della neve si vestì da sposa in onore di suo marito. Ad Anna piaceva dormire con la finestra aperta e sentirsi scorrere sul volto la fragranza dei fiori di ciliegio per tutta la notte. Pensava che fosse molto poetico, mentre Marilla pensava invece che rischiasse la vita. Il giorno del ringraziamento lo si dovrebbe celebrare in primavera, disse Anna una sera a Marilla, mentre sedevano sul gradino davanti a casa e ascoltavano il coro argentino dei ranocchi. Credo che sarebbe molto meglio che in novembre, quando tutto è morto o addormentato. Allora uno si deve ricordare di ringraziare, ma in maggio non si può fare a meno di essere grati a qualcuno, fosse solo per il fatto di essere vivi. Mi sento esattamente come dovette sentirsi Eva nel paradiso terrestre prima che cominciassero i guai. L'erba in quella valletta è verde e odorata. Sai, Marilla, mi sembra che un giorno così raro come questo, quando tutti i boccioli sono in fiore e i venti non sanno da dove spirare quasi per puro capriccio, debba essere bello quasi come il paradiso. Marilla sembrò scandalizzata e diede un'occhiata apprensiva attorno per assicurarsi che i gemelli non fossero nei dintorni. Proprio in quel momento essi stavano girando l'angolo della casa. «Non è una sera molto profumata?» chiese Davy, annusando deliziato mentre faceva roteare una zappa nelle manine sudice. Aveva lavorato al suo giardino. Quella primavera Marilla, per incanalare proficuamente la passione di Davy di giocare con il fango e con l'argilla, aveva affidato a lui e a Dora un piccolo tratto di terreno per farvi un giardino. Entrambi si erano alacremente messi al lavoro, ciascuno a suo modo. Dora piantava, sarchiava, annaffiava con cura, metodicamente, spassionatamente, e come conseguenza il suo appezzamento era già verde di piccole file ordinate, ben allineate di legumi e piante annuali. Davy, tuttavia, lavorava con più zelo che discrezione. Zappava, scavava, rastrellava, annaffiava e trapiantava con tale energia che i suoi semi non avevano alcuna possibilità di attecchire. Come va il giardino, Davy mio? Chiese Anna. Un po' lentamente, rispose Davy con un sospiro. Non so perché le cose non crescono più in fretta. Malty Boulter dice che devo averle piantate quando non c'era la luna e che questo è il guaio. Dice che non si devono mai piantare semi o uccidere il maiale o tagliare i capelli o fare qualcosa di importante quando la luna non è favorevole. È vero, Anna? Voglio saperlo. Forse se tu non tirassi fuori dalla terra le tue piante fino alla radice, giorno sì, giorno no, per vedere come stanno, crescerebbero meglio, disse Marilla sarcastica. Ne ho tirate su solo sei, protestò Davy. Volevo vedere se c'erano i vermi alle radici, ma Malty Boulter dice che se non è colpa della luna, deve essere colpa dei vermi. Ma di vermi ne ho trovato solo uno. Era un bellissimo bruco, grasso e grosso e tutto increspato. L'ho messo su una pietra e poi ho preso un'altra pietra e l'ho schiacciato. Si è spiaccicato tutto. Mi è dispiaciuto che non ce ne fossero altri. Il giardino di Dora è stato piantato insieme al mio e lì tutto cresce bene. Non può dipendere dalla luna, concluse Davy con tono meditabondo. Marilla, guarda quel melo, disse Anna. Sembra un essere umano. Stende le lunghe braccia per raccogliere la gonna rosea e farsi ammirare. Questi alberi di Renette crescono proprio bene, disse Marilla compiaciuta. Quell'albero sarà stracarico quest'anno. Sono davvero contenta. Vanno benissimo per le torte. Ma era destino che né Marilla né Anna né alcun altro dovesse fare torte di Renette quell'anno. Venne il 23 maggio. Una giornata di un caldo inconsueto per la stagione, e nessuno se ne accorse più di Anna e del suo alveare di allievi che nell'aula di Avonlea sudavano sulle frazioni e la sintassi. Durante la tarda mattinata si mosse una brezza afosa che dopo mezzogiorno andò calando fino a cedere il posto a un'afa pesante e immobile. Alle 3:30 Anna udì un cupo rombo di tuono. Terminò quasi subito la lezione, in modo che i bambini avessero il tempo di arrivare a casa prima che scoppiasse il temporale. Mentre uscivano nel campo di gioco, Anna sentì che, nonostante il sole brillasse ancora allegramente, si stendeva sul mondo come un'ombra, un sentore di tenebre. Annetta Bell la prese per mano nervosa. «Oh, signorina maestra, guardi quella brutta nuvola!» Anna guardò e diede in una esclamazione di sgomento. A nord-ovest stava rapidamente accumulandosi una massa di nubi come non aveva mai visto in vita sua. Era di un nero intenso, a eccezione dei margini che, incurvandosi e arricciandosi, mostravano un bianco livido spettrale. C'era qualcosa in essa di indescrivibilmente minaccioso, mentre il cielo chiaro si andava rabbuiando. Ogni tanto, attraverso la nuvola, guizzava un lampo, seguito da un potente brontolio. Le nubi erano così basse che parevano quasi sfiorare la cima delle colline boscose. Il signor Harmon Andrews risalì la collina ballonzolando sul suo carro e spingendo la pariglia dei cavalli grigi alla massima andatura. Davanti alla scuola li fece fermare. «Mi sa che zio Abe ci ha azzeccato per una volta in vita sua!» gridò ad Anna. «Il suo temporale arriva un po' in anticipo!» Hai mai visto una nuvola come quella? Qua tutti voi piccolini che venite dalla mia parte, ammucchiatevi qua, su, e voi che non entrate, filate in fretta all'ufficio postale, se avete più di mezzo chilometro da fare a piedi, e restate lì finché l'acquazzone non sarà finito. Anna prese Davy e Dora per mano e volò giù per la collina, lungo il sentiero delle betulle, oltre la valle delle violette, lo stagno dei salici, veloce come potevano correre le gambette grassocce dei gemelli. Arrivarono a Green Gables senza un secondo di anticipo e furono raggiunti sulla porta da Marilla che era andata a mettere al riparo Anna Trepolli. Mentre entravano precipitosamente, in cucina la luce parve scomparire come soffiata via da un respiro possente. La terribile nuvola coprì il sole e un'oscurità simile a quella delle tarde ore del crepuscolo cadde sul mondo. Nello stesso momento, con un fragor di tuono, e il bagliore accecante di un lampo, la grandine si avventò sul paesaggio, cancellandolo come una furia bianca. Nel fragore della tempesta si udiva il tonfo dei rami spezzati che colpivano la casa e lo schianto acuto dei vetri che si infrangevano. Nel giro di 3 minuti ogni vetro delle finestre a occidente e a settentrione andò in pezzi e la grandine si riversò attraverso le aperture, coprendo il pavimento di chicchi, il più piccolo dei quali era grosso come un uovo di gallina. Per 3 quarti d'ora la tempesta infuriò senza placarsi e nessuno che la subì la dimenticò mai più. Marilla, perduta una volta tanto l'abituale compostezza, in preda a puro terrore, si inginocchiò accanto alla sedia d'ondolo in un angolo della cucina, ansimando e singhiozzando tra l'assordante rombo dei tuoni. Anna, bianca come un lenzuolo, aveva allontanato il sofà dalla finestra e vi sedeva, un gemello di qua e uno di là. Devi, al primo schianto, aveva urlato con un lamento: Anna, Anna, è il giorno del giudizio, io non l'ho fatto apposta a essere cattivo. Poi aveva nascosto il volto in grembo ad Anna e lì era rimasto con il corpicino tutto tremante. Dora, pallida alquanto ma composta, sedeva con la mano stretta in quella di Anna, tranquilla e immobile. C'è di che pensare che nemmeno un terremoto sarebbe riuscito a scuotere Dora. Poi, altrettanto improvvisamente com'era cominciata, la tempesta cessò. Smise di grandinare, il tuono rotolando e rombando andò allontanandosi verso levante e il sole apparve all'improvviso allegro e radioso su un mondo così cambiato che sembrava impossibile fosse venuto un tale mutamento in soli 3 quarti d'ora. Marilla si alzò da ginocchioni com'era e, debole e tremante, si lasciò cadere sulla sedia d'ondolo. Aveva l'aria smarrita e dimostrava 2 anni di più. «Ne siamo tutti usciti vivi?» domandò sgomenta. «Ci puoi scommettere», rispose la vocina acuta di Devi, che aveva ripreso coraggio ed era tornato allegro. «Non mi sono spaventato nemmeno un po'. Beh, solo al principio. È successo così all'improvviso. Ho deciso subito, in un attimo, che non avrei fatto a botte con Teddy Sloan lunedì, come gli avevo promesso. Ma ora forse lo farò. Di, Dora, ti sei spaventata?» «Sì, mi sono un po' spaventata», rispose Dora compostamente, «ma mi sono aggrappata alla mano di Anna e ho continuato a ripetere le mie preghiere». «Beh, anch'io avrei detto le preghiere se mi fosse venuto in mente», disse Devi. «Ma», aggiunse trionfante, «vedi bene che l'ho scampata come te, anche se non le ho dette». Anna portò a Marilla un bicchiere del suo corroborante vin santo, quanto corroborante fosse Anna nei suoi verdi anni lo aveva imparato a sue spese, e poi si fecero sulla porta per guardare quello strano spettacolo. Dappertutto si stendeva un tappeto bianco alto fino al ginocchio, di chicchi di grandine. Mucchi di essi si ammassavano sotto le gronde e sui gradini. Quando 3 o 4 giorni dopo questi chicchi si sciolsero, si vide chiaramente la distruzione che avevano provocato, giacché ogni germoglio verde nel campo o nel giardino era tagliato alla radice. E non solo ogni boccio era stato strappato via dal melo, ma rami grandi e piccoli erano stati schiantati. E dei 200 alberi piantati dai progressisti, la maggior parte erano stati sradicati o abbattuti. «Com'è possibile che sia lo stesso mondo di un'ora fa?» chiese Anna sbalordita. «Com'è possibile una così rapida devastazione?» «Mai accaduta una cosa simile sull'isola del principe Edward», disse Marilla. «Mai. Ricordo che quando ero bambina vi fu un grosso temporale, ma nulla a paragone di questo. Sentiremo che sono avvenute terribili distruzioni, potete contarci. Spero che nessuno dei bambini sia stato sorpreso fuori casa dalla tempesta», disse Anna. Come si seppe poi, nessuno dei bambini lo era stato, dato che tutti quelli che avevano una certa distanza da percorrere avevano dato ascolto all'eccellente consiglio del signor Andrews e si erano rifugiati nell'ufficio postale. «Ecco che viene John Henry Carter», disse Marilla. John Henry si faceva largo tra i chicchi di grandine con una smorfia di disgusto. «Oh, non è terribile, signorina Cuthbert! Il signor Harrison mi ha mandato a vedere se stavate tutti bene». «Nessuno è rimasto ucciso», disse Marilla brusca, «e nessuno dei fabbricati è stato danneggiato. Spero che anche voi ve la siate scampata altrettanto bene». «Non altrettanto, signora, siamo stati colpiti dal fulmine. La folgore ha buttato giù il camino della cucina, è scesa giù per la gola, ha investito la gabbia di Ginger, ha scavato un buco nel pavimento ed è scesa in cantina». «Sì, signora». «Ginger è ferito?» si informò Anna. «Sì, signora, e gravemente anche. È morto». Più tardi Anna andò a confortare il signor Harrison e lo trovò seduto al tavolo a carezzare con mano tremante il cadavere dell'allegro Ginger. «Il mio povero Ginger! Non la insulterà più, Anna!» disse Harrison afflitto. Anna non avrebbe mai pensato di piangere per Ginger, ma le vennero le lacrime agli occhi. Era l'unico compagno che avevo, Anna, e ora è morto. Bene, bene, sono proprio un vecchio pazzo a prendermela tanto. Farò finta che non me ne importi niente. Lo so che appena avrò finito di parlare mi dirà qualcosa di gentile, di comprensivo, no? Non lo faccia, la prego. Se lo facesse mi metterei a piangere come un bambino. Che spaventoso temporale. Credo che d'ora in poi la gente non riderà più delle previsioni di zio Abe. Si direbbe che tutte le tempeste che ha predetto in vita sua e che non si sono mai verificate si siano scatenate tutte insieme. Il colmo è che ha indovinato esattamente il giorno, no? Guardi che disastro. Devo spicciarmi a trovare delle tavole per tappare quel buco nel pavimento. La gente di Avonlea, il giorno dopo, non fece altro che scambiarsi visite e confrontare i danni. Le strade erano impraticabili ai carri a motivo della grandine, sicché si andava in giro a piedi o a cavallo. La posta arrivò tardi, con cattive notizie da tutta la provincia. Case colpite dalla folgore, gente uccisa o ferita, tutta la rete telefonica e telegrafica dissestata e le bestie giovani che erano rimaste esposte nei campi erano morte. L'indomani, di buon mattino, lo zio Abe si fece largo tra la grandine fino alla fucina del fabbro e lì rimase per tutto il giorno. Fu l'ora del trionfo di zio Abe e se lo godette appieno. Si farebbe a zio Abe un'ingiustizia dicendo che era contento che ci fosse stato il temporale, ma dato che ci sarebbe stato comunque, era contentissimo d'averlo previsto e nel giorno esatto per giunta. Zio Abe dimenticò di aver smentito, di aver fissato un giorno, e in quanto alla bazzecola della differenza di ora, non c'era da farne conto. Gilbert arrivò a Green Gables la sera e trovò Marilla e Anna tutte indaffarate a inchiodare strisce di tela cerata al posto dei vetri rotti. Ah, Dio solo sa quando riusciremo a riavere i vetri, disse Marilla. Il signor Barry è andato a Carmody di questo pomeriggio, ma non ne ha trovato neanche uno, né per amore né per forza. Lawson e Blair alle 10 erano già state saccheggiate dalla gente di Carmody. Gilbert, è stata forte la tempesta a White Sands? Altro che, io sono stato colto a scuola con tutti i bambini e ho creduto che alcuni impazzissero dal terrore. Tre sono svenuti, due ragazze hanno avuto un attacco isterico e Tommy Blewitt non ha fatto che sgolarsi e strillare per tutto il tempo. Io ho strillato solo una volta, disse Davy fieramente. Il mio giardino è stato tutto spianato, continuò afflitto, ma anche quello di Dora, aggiunse con un tono che rivelava che c'era giustizia a questo mondo. Anna arrivò correndo dall'abbaino a ponente. Oh, Gilbert, hai sentito la notizia? La vecchia casa del signor Levi Boulter è stata colpita e rasa al suolo dal fulmine. Mi sembra d'essere molto malvagia rallegrarmi di questo fatto, con tutti i danni che ci sono stati. Il signor Boulter dice d'essere convinto che è stata la spa con una stregoneria a provocare la tempesta. Bene, una cosa è certa, fece Gilbert. L'osservatore ha accreditato a zio Abe la giusta fama di meteorologo che azzecca nelle previsioni. La tempesta di zio Abe passerà alla storia. È davvero una straordinaria coincidenza che sia avvenuta esattamente nel giorno che abbiamo scelto. Provo un tantino di senso di colpa, come se realmente l'avessi provocata con un incantesimo. Tanto vale rallegrarsi perché la vecchia casa è andata distrutta, visto che da rallegrarsi c'è ben poco per quanto riguarda gli alberelli. Appena piantati, nemmeno 10 l'hanno scampata. Bene, non ci resta che ripiantarli la prossima primavera, aggiunse Anna filosoficamente. C'è una cosa buona in questo mondo, ed è che ci saranno sicuramente altre primavere.